Torniamo, 19 minuti sono trascorsi dopo le 8 e annunciato anche perché il parterre, la griglia dei partecipanti per quello che riguarda cosiddetta il fronte, l'ala complottista, è stato allestito, insomma auspicato e tifato dai nostri tantissimi ascoltatori. Già tanti messaggi al 342-4151-406. Messaggi che stanno arrivando da ogni parte d'Italia e del mondo, credeteci, grazie oggi ad internet questo è possibile, inimmaginabile quando iniziamo anche come pionieri questo lavoro. 342-4151-406, il vostro messaggio, la vostra conoscenza, il grado di conoscenza per quello che riguarda l'argomento che noi stiamo trattando, le scie chimiche, le vostre considerazioni, se sapevate, conoscevate la questione, se siete scettici pur conoscendola. Il primo dei nomi importantissimi che partecipano al convivio, al dibattito, è quello di Corrado Penna. Dottor Penna, buongiorno. Buongiorno. Autore dello scritto La scienza marcia, in cui denuncia presunte falsità di quelle che definisce cultura ufficiale, la non infettività dell'AIDS, il complotto psichiatrico e altre tematiche di ambiente cospirazionista. È uno dei grandissimi nomi, questo lo dico io, non le fa difetto, immagino neanche imbarazzo. Insomma, innanzitutto grazie, professor Penna, per aver accettato il nostro invito. Sa con quale delicatezza l'informazione, anche quella cosiddetta più esuberante, si spinga ad affrontare un tema così delicato come quello delle scie chimiche, perché se fosse vero quello che sostenete voi, ma già la letteratura è abbastanza esaustiva in questo termine e in questo senso, la gente che quei mostri che hanno fatto sì che ciò accadesse sono dei veri e propri criminali contro l'umanità. Professor Penna, che cosa sono le scie chimiche? Esistono prove documentate che già negli anni 50 alcuni governi hanno utilizzato degli aerei per diffondere delle sostanze tossiche sulla popolazione, facendo degli esperimenti di guerra biochimica, che ad esempio nell'Inghilterra per ammissione del Ministero della Difesa hanno coinvolto 2 milioni di persone utilizzate come cavie inconsapevoli e involontarie. In particolare sono stati spruzzati elementi come il solfuro di zinco cadmio, che è tossico. La scusa ufficiale era preparare la nazione ad un eventuale attacco biochimico della Russia e quindi fare prima degli esperimenti per capire come si poteva reagire. Ecco, le scie di condensa invece sono un fenomeno meteorologico che secondo gli stessi meteorologi ufficiali, cioè secondo chi nega le scie chimiche, si forma comunque ad alta quota a causa del traffico aereo civile quando c'è molto freddo, quando c'è almeno meno 40 gli alti strati dell'atmosfera, intorno ai 10 km dove passano gli aerei di linea. Ecco, se invece noi controlliamo i dati delle radiosonde che ci permettono di leggere i dati appunto di temperatura e umidità relativa a 8, 9, 10, 11, 12 km di altezza, scopriamo che spesso la temperatura e soprattutto l'umidità relativa non sono quelle richieste, cioè spesso vediamo scie di condensa addirittura persistenti nel cielo e i valori delle radiosonde che danno umidità relativa del 30, 40, 50% a quelle quote. Ecco, secondo libri di fisica dell'atmosfera, di meteorologia, queste scie si formano quando l'umidità è almeno del 60%, noi controlliamo i valori, quando vediamo queste scie nel cielo le cose non combaciano e allora questo dovrebbe già mettere sull'avviso. Peraltro appunto anche il meteorologo militare De Simone in un suo articolo Le scie bianche prodotte dai jet ammette che queste scie sarebbero secondo lui dovute a traffico civile ad alta quota laddove c'è molto freddo. Ecco, noi possiamo guardare il cielo continuamente e vedere cose differenti. Certo, se lo guardiamo ogni tanto non ce ne accorgiamo, ma se abbiamo la costanza e la determinazione di controllare il più spesso possibile, vediamo aerei con scia volare sotto i cumuli o attraversare i cumuli oppure gli stratocumuli, che sono le classiche nubi basse che si formano intorno ai 2 km di altezza, oppure possiamo guardare questi aerei, ascoltare il loro rombo. Il forte rombo è il fatto che li vediamo abbastanza ben visibili, con tutte le caratteristiche ben distinguibili, mostra che questi aerei volano alquanto bassi. Ora, in questa condizione partecipano anche persone che dicono esattamente il contrario. Viva Dio! Solo di scie di condensa. No, dico professor Penna, viva Dio! Sì, sì, certo. Una tesi si rafforza quando qualcuno cerca di smontarla. Certo, appunto. Quindi volevo dire che queste persone, e anche noi, insomma, sui nostri siti, blog, ci si accusa a vicenda di nascondere la verità. Io, professor Penna, colgo davvero questa opportunità che è straordinaria, che è possibile viverla grazie anche, immagino lei faccia riferimento a Paolo Attivissimo, il quale, anche ispirato da noi, si sta attivando per contattare anche altre persone, perché l'ENAV ha detto che non vuole intervenire in una trasmissione dove c'è Rosario Marciano. Detto questo, abbiamo anche garantito all'ENAV che gli interventi sono assolutamente distinti, almeno per quella che dovrebbe essere, ma immagino sarà, una prima puntata di tante che mi auguro ci siano e abbiano anche una risoluzione e un'affermazione scientifica. Piero Angela non vuole intervenire dove c'è Mazzucco, Giuliacci non ha tempo, e quindi il fronte dei cosiddetti complottisti già parte forte di questa consapevolezza. Detto questo, io però adesso, leggendo anche i tantissimi messaggi che stanno arrivando, un paio di domande, se lei è d'accordo, vorrei fargliele. Certo. Silvano dalla provincia di Teramo ci sta seguendo attraverso il nostro sito www. Saluto tra l'altro le tante persone, ho letto anche di un ragazzo che ci sta seguendo, Marcello Fiorentini, lo ricorderete, il calciatore, saluto, ci sta seguendo, lui appassionato dall'Australia dove adesso gioca nella League Football Soccer australiana, tanti amici che ci stanno seguendo, sapendo questi che oggi avremmo trattato scie chimiche, l'avremmo fatto proprio con ospiti, personaggi assolutamente autorevoli del settore e non soltanto di questo, come Corrado Penna e il professor Penna, che in questo momento è in diretta con noi. Silvano dalla provincia di Teramo le chiede: è vero, mio padre mi disse una volta che già negli anni 50 si bombardavano le nuvole per provocare la pioggia. È lo stesso sistema ed è la stessa nocività? Allora, i sistemi per la manipolazione climatica risalgono i primi brevetti addirittura agli anni 20, quindi abbiamo ormai 90 anni di brevetti e di sperimentazioni per la manipolazione climatica. Per generare la pioggia o per inibire la pioggia ormai esistono da tanto tempo degli apparecchi appunto per disseminare questi composti sulle nuvole e favorire la condensazione della pioggia o inibire la pioggia. Ecco, chiaramente si tratta di sostanze che non fanno bene, ad esempio lo ioduro d'argento, non è che poi facciano bene queste sostanze che si utilizzano già da tempo per far piovere, ad esempio, per inibire la pioggia, ma qua parliamo anche di altre sostanze come l'alluminio. Il bario può servire anche alla manipolazione climatica, ma parliamo anche di sostanze completamente diverse, come certi strani filamenti fibrosi, certi nanopolimeri, che assolutamente hanno ben poco a che fare con la manipolazione climatica e che potrebbero essere ancora più pericolose, perché una dottoressa americana con un microscopio elettronico ha rilevato fibre dello stesso tipo nei malati di una malattia al momento quasi incurabile che si chiama morbo di Morgellons. Quindi non è esattamente la stessa cosa, secondo quello che abbiamo potuto scoprire noi con le nostre indagini è ancora più pericoloso e soprattutto certo, non si tratta solo di manipolazione climatica. La incalzo, quindi si tratterebbe anche di sperimentazione militare, di esperimenti militari? Si tratta anche di esperimenti militari, sicuramente viene tutto gestito in ambito militare, d'altronde le previsioni del tempo le fanno grazie a quello che proviene dall'aeronautica militare, grazie ai dati dell'aeronautica militare. Noi sempre siamo abituati a sentire questa parola aeronautica militare associata alle previsioni del tempo. Ecco, appunto, le previsioni del tempo spesso prevedono innocue velature o velature nuvolose, ma se noi guardiamo il cielo ogni 10 minuti, io ho questa testardaggine, questa determinazione, mi accorgo che in certi giorni il cielo è sereno alle 7 di mattina, poi passano decine di aerei con le scie si espandono, si intersecano, si sovrappongono e poi il cielo diventa bianco, quasi uniforme, e queste sono le velature innocue previste dai meteo. Quindi se noi guardiamo il cielo continuamente, certo, ci accorgiamo che i meteo gestiti dai militari mentono, professor, e che quelle non sono normali scie. Professor Penna, io la incalzo, ma detto questo ricordo, per quello che concerne Overture Radio Yes, immagino questa, ma sono convinto, me lo auguro, sarà soltanto una prima di tante puntate sulle scie chimiche. Nella lettura, nei passaggi di Wikipedia, stiamo parlando dell'enciclopedia meno attendibile, più famosa, più visitata, più consultata e meno attendibile del mondo, si legge: tale teoria del complotto, quella che sostenete voi, che sostiene anche lei, non ha mai trovato alcun credito nell'ambito della comunità scientifica. È vero questo? Beh, se succede quello che diciamo noi, evidentemente chi conduce l'operazione, cioè i governi e gli apparati militari di varie nazioni del mondo, si devono cautelare. E quindi è chiaro che fanno di tutto per evitare che la comunità scientifica indaghi seriamente, però noi abbiamo raccolto le dichiarazioni di fisici, di meteorologi e anche di ingegneri aeronautici. Questa documentazione è stata raccolta dal regista Patrick Pasen e mostrata nel suo film Bye Bye Blue Sky, di cui ho tradotto i passaggi salienti, e quindi troviamo tutte queste persone. Anche un ingegnere aeronautico olandese che dichiarano senza peli sulla lingua che quelle scie che durano tanto tempo nel cielo assolutamente non possono essere scie di condensa. È chiaro che pubblicare su una rivista ufficiale delle misurazioni o degli esperimenti che potrebbero provare l'esistenza delle scie chimiche è molto difficile, perché tutti i direttori di queste eventuali riviste a cui si sottopongono questi studi riceverebbero delle pressioni fortissime affinché... Ha dato uno spunto prima di salutarla, dopo di lei ha già annunciati nell'ordine... Allora, il professor Corrado Penna, che stiamo per congedare ringraziando, poi ci sarà Paolo, attivissimo del CICAP, poi Rosario Marcenò, poi i vari contributi, poi Massimo Mazzucco. Lei, se oggi dovesse muoversi anche in ordine ad una scienza comportamentale, cercando nei riscontri la validità di una teoria scientifica ovviamente, cosa direbbe a chi invece avversa la vostra tesi? Di fare un confronto serio usando tecniche di sperimentazione scientifiche che potrebbero rivelare la vera nocività o la vera normalità di queste scie? Si può fare, si può lanciare questa sfida? Ma sicuramente, siccome parliamo di questioni scientifiche e meteorologiche... Lei dice in buona sostanza, se le mettessero a disposizione dei mezzi, anche di natura militare, voi sareste in grado di dimostrare che le scie chimiche sono quello che sostenete voi? Beh, innanzitutto, se noi avessimo i mezzi, potremmo magari volare continuamente su e giù e controllare che questi aerei che lasciano le scie volano molto in basso e non ai 10 km di altitudine. Se avessimo i mezzi per raccogliere gli elementi che fuoriescono, avremmo modo di analizzarli. Certo. Se potessimo volare là vicino, avremmo modo di fotografare. Quindi noi nel nostro piccolo potremmo chiedere, attraverso una petizione popolare che immagino parta oggi e sarà sempre più grande a pochissimo tempo, in un tormo di tempo molto breve, potremmo creare questo movimento d'opinione, indirizzarlo al neo ministro della difesa e chiedere una disponibilità totale riguardo lo studio di queste scie. Potremmo, noi ci proviamo, chissà quale sarà la risposta. Difficile, visto la persona in questione. Noi ci proviamo, però. Organicamente legata alla NATO. Noi ci proviamo, professor Penna. Quando di fronte a tantissimi italiani questi diranno di no, tantissimi italiani avranno un elemento in più per pensare male di questa classe politica. Prima di salutarla, ricorda lei cosa fa nella vita, perché se lo dico io non ha senso. Vabbè, io mi sono laureato in fisica all'Università di Messina col massimo dei voti e poi ho intrapreso la carriera di insegnante, adesso insegno alle scuole superiori. È la stessa cosa che ebbi a dire di Malanga, sono due persone diverse, trattano due argomenti diversi, più conquistato dalla tesi del professor Penna, non me ne voglia, il professor Malanga, però sono persone di comprovata stabilità emotiva, psicologica e soprattutto di preparazione intellettuale. Professor Penna, grazie per la sua partecipazione e a presto. Prego, arrivederci. Grazie, grazie a Corrado Penna. Grazie a Corrado Penna. Ripeto, almeno in questa prima puntata, gli interventi saranno tutti distinti, non si sovrapporranno le voci, ognuno dirà e esporrà la propria tesi e poi, successivamente, se ce ne sarà bisogno, mi auguro di sì, ma credo di sì, si farà un confronto aperto tra chi sostiene la nocività e chi sostiene la normalità di queste scie. Dopo è la volta di Paolo Attivissimo del CICAP. Torniamo a voi, 40 minuti dopo le 8, buon venerdì 18 di novembre 2011, tutto rigorosamente riportato per dare l'effetto diretta a chi ci sta ascoltando. 342-415146, ripeto, 342-415146. Cosa sapete delle scie chimiche? Vi convincono le tesi dei cosiddetti complottisti? Vi convincono le tesi più cicappine? Non conoscevate fino a poco tempo fa questo argomento? Rivelateci, insomma, le vostre sensazioni qui al servizio di messaggeria. Con 4-5 minuti di ritardo, e per questo ce ne scusiamo, il nostro buongiorno a Paolo Attivissimo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ci diamo del tu? Sì, non Dai, c'è problema. Senza false ipocrisie, perché ci scriviamo in seconda persona e poi... Allora, è intervenuto prima di te Corrado Penna e ha sostenuto una tesi che tu ben conosci. Gli interventi di oggi, ci tengo a dirlo, sono distinti. Questo significa che volevamo non sovrapporre le tesi sostenute in un ambito così complesso ma così ricco, forse non esaustivo al 100%, ma abbastanza dotato dal punto di vista della rappresentatività. Detto questo, posso dire che l'eccellenza da solo la fa per il fronte anti-scie chimiche, anti-complottisti, Paolo Attivissimo, perché a parte qualche nome che ha indicato Paolo Attivissimo, l'ENAV non è voluta intervenire, dicendo che non sarebbe intervenuta in una trasmissione, seppur distinta nell'intervento da Rosario Marcianò, dove c'era Rosario Marcianò. Piero Angela non vuol sentir parlare di complottisti, quindi sei rimasto solo a tenere alta la bandiera. Lo fai in un tempo distinto, parlando della tua tesi, e io parto subito con la domanda, quindi: tu non credi alle scie chimiche, per quale motivo? Ma non è una questione di credere, è una questione di guardare i fatti e vedere se corrispondono a quelli che vengono dichiarati dai vari sostenitori delle tesi delle scie chimiche. Posso capire benissimo il fatto che persone come Piero Angela o l'ENAV, enti come l'ENAV, non vogliono intervenire, perché il concetto fondamentale è che la tesi delle scie chimiche spaventa la gente per niente. Ci sono dei problemi veri, molto concreti, ben più gravi. Diffondendo queste storie e partecipando a trasmissioni di questo genere, c'è il rischio che enti di questo genere facciano conoscere di più una cosa, una panzana, perché è quella che è dal punto di vista scientifico, e facciano paradossalmente un favore a quelli che, invece di farci pensare ai problemi veri della nostra vita quotidiana, l'inquinamento quotidiano delle nostre città, che è molto più significativo rispetto a qualunque cosa che possa essere disseminata in quota. E allora la domanda è: perché si fanno queste cose? Perché la gente che vuole proporre queste paure quotidiane... No, ti tengo più a lungo, Paolo, sì, però perché sì, tu partecipi, accetti l'invito a differenza loro? Ma perché io sono un bloggerino di campagna, il fatto che io partecipi a una trasmissione di questo genere non aumenta la visibilità di questi personaggi che sostengono queste paure prive di fondamento. Del resto io faccio solo delle riflessioni molto semplici. Prima di tutto non mi presento come esperto, ma raccolgo quello che mi dicono gli esperti del campo, e faccio dei ragionamenti abbastanza semplici. La prima cosa che mi viene in mente è: se davvero questi ricercatori come Marcianò, come Corrado Penna, come tutti gli altri, avessero scoperto questo incredibilmente grande complotto con migliaia di persone coinvolte, con l'intenzione di soggiogare l'umanità, perché sono ancora vivi? Voglio dire, lo dico nel modo più simpatico, cordiale del mondo, però se di solito quando qualcuno scopre qualcosa che dà fastidio ai potenti, viene fatto fuori. Qualcuno ricorderà per esempio Anna Politkovskaya o più vicino a noi Peppino Impastato. Quando si toccano i veri interessi. Sì, anche se Peppino Impastato poi andai giù e scoprì che era morto perché aveva detto puttana alla moglie di Tano Badalamenti, Tano seduto e vacca sdraiata, e non perché gli gridava in faccia in piazza, gli era anche simpatica questa rappresentazione carnascialesca al capo della mafia che era il capo della mafia. Comunque sia, mettiamola come vogliamo, questi sono giusti esempi, però il concetto fondamentale è che di solito se si scopre qualcosa che dà fastidio a qualcuno che sarebbe, secondo questa teoria, disposto a fare un genocidio, perché sono ancora vivi, insomma? Perché sono liberi di parlare? Perché radio come Radio Yes sono libere di parlare di questo argomento? Semplicemente perché... Ha avuto uno sguardo di paura il regista, Paolo. ma infatti è quello che sto dicendo, con queste, diffondendo queste panzane si spaventa la gente per niente. Andiamo a vedere i fatti, sono 16 anni dal 1995 che si parla di queste scie nel cielo, è un'invenzione di un gruppo americano, di persone abbastanza estreme. Si parla di sostenitori delle teorie dell'arianesimo e cose di questo tipo. E dicono, ah, c'è questo genocidio, moriremo tutti, ci sono le scie chimiche. Siamo diventati 7 miliardi, dove stanno le morie che dovrebbero esserci secondo questi sostenitori? Ascolta, anche perché Paolo attivissimo è quello che ha più tempo, giusto? Perché è l'unico che... quindi fino alle 9 lo terremo, Paolo. Prima della pubblicità, però ti devo fare una domanda. Ti muovi da ragazzo di provincia, di campagna, anch'io vengo dalla campagna alla provincia e quindi mi piace questo status, credo sia un'accezione assolutamente positiva, e fai delle considerazioni da ragazzo di provincia, quelle che mi mossero e mi posero di fronte all'argomento anche delle scie chimiche. La domanda che ti faccio io e per la quale ti chiedo la cortesia di rispondermi dopo la pubblicità però è un'altra. Ma perché allora non li chiudono questi siti, questi blog? Perché non mettono a tacere per sempre, con una prova assolutamente scientifica, questi folli come Penna, Marciano, Mazzucco, che sostengono invece la nocività delle scie chimiche? Perché tu sei un ragazzo molto intelligente e sai meglio di me che un morto crea un martire. Screditare una persona significa arricchire la lista dei pazzi. Ci fermiamo qui, Paolo attivissimo risponde dopo la pubblicità, rimanete con noi. La domanda era questa, in buona sostanza, uccidere un Marciano, il termine, uccidere un signor Rossi qualsiasi che si interessa di queste cose e creare un martire, screditarlo e farlo un po' passare da pazzo, significa rafforzare le tesi ufficiali riguardo uno specifico argomento. E perché non li mettono a tacere? Perché non rispondono? Un altro contributo e poi ti lascio la risposta che arriva dalla signora, conoscerai te, Luigina Marchese, la quale ha scritto al presidente Napolitano sulle scie chimiche, sentiamola. Ecco, dicevo, io non sono quindi un fisico, non sono un meteorologo, sono una persona che ha osservato il cielo da anni e che ha tratto quindi le dovute conclusioni e vorrei che ognuno facesse altrettanto. Da queste osservazioni sono emersi degli elementi anomali da prendere in considerazione e sono elementi per me rimasti irrisolti perché io non ho avuto risposte dagli organi competenti, quindi parlo di ENAC, ENAV, parlo di sindaci, carabinieri, parlo dello stesso ministro della difesa, La Russa, e parlo dello stesso presidente della Repubblica al quale ho scritto tempo fa una lettera. E quindi queste anomalie strane ci sono ed è a queste che dobbiamo ovviamente dare la lettera la mostrammo con Severino Colombo ospite, la segreteria della Presidenza della Repubblica disse questi sono argomenti che riguardano il settore militare e ci riserviamo di non risponderle. Perché non si smentiscono pubblicamente e definitivamente questi complottisti attivissimo? Ma le smentite sono già state fatte diverse volte, è chiaro che se c'è gente che non le vuole ascoltare, che non si fida degli esperti ma preferisce ascoltare qualcuno che non è competente nella materia, beh, detta una volta, detta due volte, detta 10 volte, a un certo punto ci si stufa anche di ripetere la stessa cosa. Però non trovi che sia pericoloso su un argomento così, così spinto, così pubblicato, così enfatizzato, perché stiamo parlando, se fosse vera la tesi dei complottisti, di un mondo malato e letale. Sì, ma se fosse vera, il problema è proprio questo. Prima di tutto nessuno è ancora riuscito a dimostrarlo e vorrei correggere Corrado Penna quando dice che bisognerebbe chiedere ai militari di fare i controlli. Sarebbe assurdo, sarebbe come chiedere ai salumiere se il suo salame è buono. In realtà basta prendere un qualunque aereo normale, un piccolo Piper, un Cessna, volare alle quote secondo le quali queste, i sostenitori delle scie chimiche dicono che ci sono queste scie strane, che ci sono troppo basse, e fare le analisi, si portano al laboratorio di chimica, si fanno le verifiche tutte insieme e si chiude la questione. Se non lo si fa, vuol dire che non si vuole fare chiarezza. Sono i sostenitori di queste tesi a non voler fare chiarezza, perché, lo dico io, la mia opinione è che ci sia un loro desiderio di continuare a far paura, di mettere in giro paccottiglia, di farsi popolarità attraverso i propri siti. Questa, se volete, è la vera cospirazione, il fatto che queste persone vogliono gratificarsi di avere un seguito proponendo questa teoria di incubi, paure terrificanti. In realtà, quando si va a vedere, quando si chiede agli esperti, quando si chiede a un pilota di linea, quando si chiede a un controllore di volo, ridono in faccia, sono stanchi di questa storia, non ne vogliono sapere più. Napolitano, i presidenti, i sindaci, l'ENAV, non rispondono a queste lettere per il semplice fatto che sono stufi di sentire le stesse domande inutili. È come se io scrivessi a Napolitano e dice: senti, guarda, davanti a casa mia c'è un unicorno che fa le scorregge tutta la mattina. Quello pensi che mi risponda? È la stessa cosa. Siamo a questi livelli, non so se... È la tua tesi. Allora, pubblicatemi la nota. Pubblicatemi la nota. Pubblicate. Allora, la leggo testualmente. Stiamo seguendo, siamo i nuovi insediati rispetto il Ministero della Difesa, stiamo seguendo, avendo ricevuto il vostro invito alla trasmissione sulle scie chimiche, volevamo soltanto augurarvi buon lavoro a voi e ai vostri ospiti, quindi non prendo un'imposizione in merito e questo ci sembrava anche scontato. Però detto questo, per rispondere anche a Paolo, ci stanno seguendo anche i nuovi collaboratori, erano stati informati del neo ministro della difesa, non so, resteranno assolutamente impantanati nella dialettica istituzionale, quindi non diranno niente in merito alle scie chimiche, come hai anticipato anche te nel tuo excursus, però ci stanno ascoltando, quindi questo mi faceva piacere condividerlo con te e con chi ci ascolta. Ma è giusto, perché almeno sapere che cosa si dice in giro, e se le paure cominciano a essere diffuse e c'è preoccupazione, allora si danno delle risposte. Però, ripeto, le risposte sono già state date. Basta, se qualcuno vuole togliersi il dubbio, può parlare con qualunque pilota di linea, magari qualcuno che lavora nel settore. Ci sono decine di migliaia di persone nel settore aeronautico, civile, italiani, che sarebbero, secondo questi sostenitori delle tesi, coinvolti in questa mega copertura. Questi aerei che spruzzano roba dalla mattina alla sera. Faccio un'altra domanda da blogger di campagna. Se davvero ci sono queste scie prodotte dagli aerei diffondendo sostanze chimiche, queste scie sarebbero lunghe centinaia di chilometri, ma dove ci sta dentro gli aerei tutta questa roba? Cioè, sono dei serbatoi volanti, sono delle super cisterne. Basta fare i conti e ci si rende conto che dentro un aereo, per quanto sia grande, tutta quella roba non ci sta. Allora, la domanda che si fa quando si vuole capire realmente come stanno le cose, vado non da un fisico, non da un ricercatore che è una persona che si è inventato un mestiere, vado da una persona che lavora con l'atmosfera. Chiamo un meteorologo, ne ho sentiti diversi, non solo italiani, non solo militari, ma anche civili, e ho detto: senti, ma questa storia delle scie chimiche, da dove vengono le scie? E la risposta è molto semplice. Le scie bianche che vediamo nel cielo sono prodotte dal fatto che l'aria ha dell'umidità, viene scaldata dai motori, che sono ovviamente caldi, quando viene scaricata forma, è come se fosse una specie di nuvola, lo è in effetti, è semplicemente l'acqua dell'atmosfera che viene condensata e poi scaricata. È per questo che le scie possono essere così lunghe, perché il materiale delle scie è già presente nell'atmosfera, l'aereo passa, la elabora e la scarica, basterebbe... ma le fa semplicemente cambiare stato. No, basterebbe rispondo, allora, lo faccio in diretta per semplificare anche il lavoro dei nostri redattori, non intervengono se non gli ospiti in diretta, ovviamente, quelli che abbiamo già contattato precedentemente. Io farei una cosa da ragazzo semplice di provincia e di campagna come te, io farei salire Marciano, Mazzucco, Penna con un loro responsabile, con un loro meteorologo di fiducia, farei salire Attivissimo e chi vuoi te con un vostro meteorologo di fiducia, porterei ad un laboratorio assolutamente affidabile, super certo della sua neutralità rispetto alle analisi di questi materiali, di questi agenti che verrebbero reperiti nel cielo, lasciati da queste scie, per mettere fine a questa querela, a questa polemica. È tutta lì la questione, basterebbe talmente poco, secondo me. Infatti, ma sai che questa organizziamolo. Cosa che tu stai dicendo, ecco, questa cosa che tu stai dicendo, io l'ho proposta 2 anni fa a Tom Bosco, che è un altro sostenitore, sì, della tesi delle scie chimiche, ho detto guarda, facciamo metà delle spese, non ci vuole tanto, è un paio di migliaia di euro, farò tutto quanto. L'hai più sentito? Un paio di migliaia di euro, facciamo tutto? Sì, sono costi bassissimi. Fra l'altro io ho amici, colleghi che lavorano, sono piloti di aerei da turismo, non c'è problema a chiamare loro, non c'è neanche bisogno di fare il piano di volo, per cui secondo alcuni si potrebbero, quelli che fanno le scie chimiche potrebbero non farsi vedere quel giorno. Lo si può fare a sorpresa. Ma che? Non lo vuole fare nessuno. Allora mi chiedo, chi è che non vuole fare chiarezza? Sono le istituzioni che hanno già risposto mille volte dicendo piantatela, abbiamo cose più importanti da fare, tipo controllare il traffico aereo, evitare che ci siano incidenti, piuttosto che rispondere alle vostre lettere. Allora, sono i sostenitori delle scie chimiche. Noi dobbiamo fermare Paolo Franceschetti, che saluto. Mi chiede di ricordare che anche Ahmadinejad ha detto che contro l'Iran hanno scatenato una guerra climatica con le scie chimiche. Ah beh, se l'ha detto Ahmadinejad, allora siamo a posto. Vedi però qui ti tradisci, vedi il tifo come ti tradisce, questa è gente che sostiene tutte le teorie possibili e immaginabili. Perché un presidente di uno Stato dovrebbe sostenere, essere considerato esperto? Perché ha capito che negli ultimi 7 anni sono rimasti nel mondo ad avere una banca centrale indipendente, negli ultimi 7 giorni l'Iran, la Corea del Nord e Cuba. Evidentemente ha anche una legittima paura rispetto al mondialismo e al nuovo ordine mondiale, Paolo. Questo me la passerai, spero. La paura la potrà anche avere, però sta di fatto l'Iran in questo momento come sta? Sta bene, grazie. Tutta questa storia delle scie che dovrebbero cambiare il clima, dove c'è un piccolo problema, te l'ho detto, che l'Iran è una superpotenza in un posto strategico della Terra ed è ancora uno Stato che ha una banca centrale indipendente insieme alla Corea del Nord e a Cuba. Hanno visto che negli ultimi tempi li ha lasciati su questo fronte che già era molto molto esiguo, quasi insensibile dal punto di vista numerico, un certo Muammar Gheddafi. Iniziano ad avere concretamente paura in Iran, ma questo credo sia legittimo. Paolo, adesso il problema delle scie, in realtà lasciamo stare. Hai dato uno spunto di credito su uno spunto ideale. Ti devo salutare, però ringraziandoti sempre, perché io ricordo, ma per un mio modo anche cavalleresco e antico di vedere la vita, Paolo Attivissimo è quello che poi c'è sempre, e è stato più brutta sentire la telefonata di una persona modestissima dal punto di vista intellettuale che ha risposto per conto dell'ENAV, quando ci sono mille modi e sicuramente anche eleganti per dinegare un invito. Paolo Attivissimo c'è, sono interventi distinti, molto probabilmente in questa cronologia dei passaggi c'è chi ha sentito Paolo e commenterà Paolo Attivissimo. Io mi prometto, e lo faccio ancora con Paolo in diretta, che questa è solo la prima puntata di altre che mi auguro possano arrivare ad un finale. La signora Giulia, dalla provincia di Belluno, da Santa Giustina, scrive: sto seguendo perché mio figlio è appassionato di scie chimiche, Paolo Attivissimo fa una proposta che tutti noi dovremmo sostenere perché potrebbe essere la madre di tutti i dubbi e risolverli. Prendere questo aereo che costa 2000 euro e far salire in cielo, con la speranza che non bisticcino, Attivissimo i suoi, Marciano, Mazzucco e Penna i suoi. E analizzare quelli che sono gli elementi che si vedono che formano queste scie. Punto. Secondo me. Paolo Attivissimo, grazie. Grazie a voi, io rimango a disposizione quando volete. Quando come no, sì, e di questo te ne sono grato, di questo te ne sono grato. Grazie Paolo, grazie davvero a Paolo Attivissimo. Rimanete con noi, Rosario Marcianò e poi Massimo Mazzù. Rosario Marcianò c'è, Rosario buongiorno. Buongiorno a tutti. Eccolo qui, eccolo qui, benissimo Rosario. Ciao, grazie per aver accettato il nostro invito, ovviamente. Certamente. Allora, Rosario Marcianò è forse, non me ne voglia nessuno, è un mio limite, però Rosario Marcianò è il nome d'eccellenza di questo gruppo di eccellenti ricercatori per quello che riguarda lo studio delle scie chimiche e conseguentemente anche al riscontro e al consenso che i loro studi hanno conquistato negli anni. Le scie chimiche, secondo Rosario Marcianò, e dopo una versione assolutamente antipotica ed esposta prima di lui da Paolo Attivissimo, cosa sono realmente, Rosario? Allora, intanto, prima di rispondere alla tua domanda, conservatela bene in frigorifero, io volevo, se me lo permetti, permetti, precisare una cosa. Sì. Per quanto riguarda la questione delle analisi in quota, sì. Allora, ci sono anche altri sistemi diversi sui quali stiamo lavorando e preferirei adesso non parlarne e non rendere pubblica la cosa, e quindi ci stiamo lavorando. A parte questo, non spetta a noi l'onere della prova, ma alle istituzioni, che negano senza fornire nessuna dimostrazione di quanto essi affermano, ma anzi, e faccio gli esempi comunque, mi riferisco al Ministero della Difesa, mi riferisco all'ARPAT, mi riferisco a vari enti istituzionali che hanno risposto rimandando ai siti di Paolo Attivissimo, del CICAP e del sito md80.it. Quindi non sono prove quelle che portano le istituzioni, ma addirittura rimandano a siti di negazionisti per eccellenza. Quindi questo già è un errore di fondo che fanno le istituzioni e, ripeto, non spetta a noi l'onere della prova. Con ciò io non mi fido delle istituzioni, tantomeno mi fido del CICAP e di Paolo Attivissimo, quindi laddove noi dovessimo intervenire con un prelievo in quota o qualcosa di simile, certamente non lo faremo in collaborazione con negazionisti di mestiere. Poi voglio anche così riferirmi alle affermazioni di Paolo Attivissimo, il quale dice che le istituzioni si sono stufate di rispondere, ma io so che il presidente Napolitano ha risposto, non ha risposto alla signora che gli aveva chiesto informazioni su questo fenomeno, ovvero sulle CIE chimiche, non ha detto: signora, guardi che lei avrebbe bisogno di uno psicologo, di uno psichiatra, lei non ha i titoli per chiedere cose del genere. No, il presidente Napolitano, per conto dell'assistente militare per l'aeronautica, ha risposto: mi riferisco alla sua lettera del 31 marzo 2010, fatta per venire all'indirizzo del Capo dello Stato, nel merito di quanto prospettato, pur comprendendo le motivazioni ed il coinvolgimento morale ed emotivo che hanno originato la sua istanza, devo mio malgrado informarla che risulta impossibile intervenire su materie regolate da specifiche disposizioni di legge, la cui applicazione spetta ai competenti ministeri e su cui la Presidenza della Repubblica non può in alcun modo intervenire. Premesso quanto sopra, la informo che la sua istanza è stata nuovamente portata all'attenzione del competente Ministero della Difesa per un sollecito esaustivo diretto riscontro. Quindi questa mi sembra una risposta molto chiara da parte del Presidente della Repubblica. Tra l'altro, Paolo Attivissimo, il 21 maggio 2009, alle ore 17.40, sul suo blog, in risposta a un lettore che gli scriveva: all'inizio smascheravi bufale reali, perché ti sei arenato su questa che non è una bufala, riferendosi alle scie chimiche? E Paolo Attivissimo rispose: perché è una bufala che sta mietendo vittime anche a livello governativo, e questo è pericoloso per noi tutti. Ecco, allora questo mi sembra esemplificativo di quanto rappresenta il problema delle scie chimiche. E ancora, se me lo permetti, voglio, prima di me, che mi dimentichi magari... Sì, prego, prego, ci mancherebbe, Rosario, prego. Ecco, voglio, dunque, se trovo il documento... Allora, mentre trovi il documento, sì, leggo... No, aspetta, Rosario, leggo, perché ha anche telefonato da Bologna il signore, vero? Quindi li leggiamo tutti, giuro, se non oggi, lunedì, sono tantissimi. Allora, Attivissimo è in malafede, l'assessore all'ambiente del Comune di Firenze è stato minacciato per aver patrocinato una conferenza sull'argomento, così come il Comitato Alta Toscana. Se si tratta di bufala, perché tanto accanimento? Dottor Massimo Brundisini da Bologna. Dottor Brundisini, può dirci il nome dell'assessore all'ambiente? Ma l'assessore Del Lungo, se non erro, infatti io ero presente alla conferenza e ascoltai quello che gli ha detto. Cerchiamo l'assessore Del Lungo anche per una prossima puntata, grazie, lo chiedo alla redazione, grazie. Prego, Rosario, perdona. Quanto riguarda la sparizione o l'uccisione degli attivisti, come mai gli attivisti non sono stati uccisi? Beh, intanto c'è il caso di Franco Caddeo, che nel 2009 è scomparso e non si è mai saputo più niente. Ed era un attivista che si occupava non solo di scie chimiche ma anche di uranio impoverito, Franco Caddeo, in Sardegna. È scomparso, non è mai stato trovato e i media nazionali non hanno mai parlato neanche di questa scomparsa. Poi voglio far riferimento a un libro che è stato scritto dall'esperto militare Edward Luttwak, che è stato anche consigliere di Ronald Reagan, e il libro è Colpo di Stato, manuale pratico. Nel capitolo 4 egli scrive che è essenziale evitare spargimenti di sangue perché questo può avere ripercussioni negative. E ancora, le masse e il loro atteggiamento verso il nuovo regime, dopo il golpe, sarà alla lunga decisivo. Il nostro compito immediato sarà di imporre l'ordine pubblico, ma il nostro obiettivo di lungo termine sarà guadagnare l'accettazione delle masse, sicché l'uso della coercizione fisica non sia necessario. Il nostro strumento in questa direzione sarà il controllo dei mezzi di comunicazione di massa. E ancora vado avanti, salto. Qui secondo me viene la parte migliore. Ogni individuo che si oppone dovrà operare in isolamento, quindi dobbiamo fare ogni sforzo per sopprimere quel genere di notizie. Se qualche resistenza compare, dobbiamo sottolineare con forza che essa viene da individui isolati, ostinati, malinformati e disonesti, che non sono affiliati a nessun gruppo o partito importante. Il lavoro costante sul tema dell'isolamento faranno apparire la resistenza inutile e pericolosa. Faremo uso di selezione adatta di frasi sgradevoli, per esempio anti-americanismo, antisemitismo, oppure, e qui lo aggiungo io, scia chimista, che è un termine inventato da Paolo Attivissimo, oppure ancora paranoico ossessionato, anche se il loro significato è stato oscurato dal loro normale uso costante e deliberato, esse restano utili come indicatori del nostro impeccabile nazionalismo. Quindi è tutto spiegabile. Questo è, come viene definito, un complotto, però è in effetti una realtà. Che cosa sono queste scie chimiche? Non andiamo più a disquisire su scie di condensa e scie chimiche. Noi sappiamo che per le osservazioni e per le misurazioni effettuate in diversi modi, e questo viene confermato da diversi scienziati, faccio alcuni nomi: Nick Pope, il dottor Cohen Vermeeren, il fisico Cassaros, anzi faccio alcune citazioni, il dottor Vermeeren dice: se guardiamo al fenomeno in generale non puoi spiegarlo semplicemente in termini di combustibile degli aerei che brucia e di temperatura ed umidità dell'aria, quelle scie di condensa non possono durare a lungo, quindi ogni scia di condensa persistente deve avere un'altra spiegazione. E poi c'è anche uno scienziato egiziano, anche egli si è occupato di questo fenomeno che purtroppo è presente anche in Egitto, e tutti questi scienziati e ricercatori con tanto di titoli sicuramente sono dalla nostra parte, non penso che siano dei complottisti sciroccati fuori di testa che vogliono solamente allarmare la popolazione. E cosa più importante, le scie che osserviamo noi sono a quota cumulo, quindi sono a quote non superiori ai 2000-2500 metri, a volte anche inferiori, e quindi a quelle quote, con quei valori di umidità e temperatura, non è assolutamente possibile che si formi alcun tipo di scia. Allora, se non sono scie di condensa, che cosa sono? Io ripeto, la storia che hai ricordato della Luigina Marchese, noi fu nostra ospite, la ospitammo, e ci fu proprio mandato il documento, lo potemmo vedere, visionare grazie a Elena Parisi, autenticarne l'attendibilità, ma era un documento della segreteria della Presidenza della Repubblica, e quindi a questo faceva riferimento. Ci stanno chiedendo quale signora dalla provincia di Caserta, Villa Literno, e rispondiamo al nostro amico ascoltatore. Consenso credibile quello che dice Rosario Marciano, ma l'ho conosciuto attraverso la vostra trasmissione, lo seguo, mi sembra assolutamente onesto intellettualmente parlando, il lavoro che sta facendo. Non mi ha convinto la storia dell'Iran di Attivissimo. L'Iran, Ahmadinejad, grazie a Paolo Franceschetti, che tra l'altro ricorda, vado velocissimamente alla lettura della stessa. Paolo qui dice: attenzione, perché è vero dell'assessore fiorentino, ma è altrettanto vero che anche il Consiglio Comunale di Cesena ha deliberato una serie di impegni per informare sulle scie chimiche. Questo accadde il 2 aprile del 2009, per cui è assolutamente avvertito. Ahmadinejad ha detto che contro l'Iran hanno scatenato una guerra chimica, altro che chiacchiere, ha parlato di chemtrails, ovvero di scie chimiche. L'argomento è assolutamente dibattuto, avvertito, sentito. Se io non avessi nessun tipo di problema, interverrei in una trasmissione. Tra l'altro gli interventi erano così distinti: Lenav ha detto di no, Angela ha detto di no, Giuliacci ha detto di no. La gente queste defezioni le sta interpretando in modo personale, per quanto opinabile, ma anche legittimato il giudizio da questa assenza voluta da parte di coloro che avevamo contattato e invitato a parteciparvi alla dieta di oggi sulle scie chimiche. Rosario, ti lascio gli ultimi 60 secondi prima di salutarti, perché tu possa dare dei riferimenti se vuoi, o suffragare ulteriormente il tuo studio e quella che è l'importanza che si deve cogliere secondo il tuo punto di vista rispetto al problema delle scie chimiche. Guarda, terminerei con qualcosa che è di attendibile. Io mi riferisco ad un testo di Kenneth Ford, La fisica delle particelle, Biblioteca Edizioni Scientifiche e Tecniche Mondadori. È un libro che è di una data al di là di ogni contestabile così attendibilità, e ad un certo punto, a pagina 11, dice: quando un aereo a reazione passa alto nel cielo, si forma sulla sua scia una nube di cristalli di ghiaccio, chiaramente visibile, anche se non è possibile scorgere l'apparecchio. Quindi, allora, quando la disinformazione, i negazionisti per eccellenza del CICAP, dicono che un aereo ad alta quota è perfettamente visibile, essi non dicono il vero, perché qui c'è un testo, La fisica delle particelle, che afferma quanto affermo io da diversi anni. Tant'è vero che fino a 10-15 anni fa noi gli aerei di linea non li vedevamo. E come mai non vedevamo gli aerei di linea? Non c'era neanche un aereo che volava in atmosfera, non c'era nessun non c'era traffico civile. Infatti poi ultimamente dicono: ma sì, ma il traffico civile è aumentato, per quello adesso si vedono. E invece no, perché c'è una notizia dell'ANSA, non neanche tanto recentissima, è comunque di un anno fa, che dice: aerei calo record dei voli in Europa. Allora c'è qualcosa che non quadra. Ecco, adesso io direi solamente, visto che questo è un problema anche che riguarda non solo la nostra salute ma anche l'economia, perché vengono dilapidati almeno 19 milioni di euro al giorno, che poi comunque cercano dalle nostre tasche per queste irrorazioni solo per l'Italia, io invito la gente ad osservare e a cercare di farsi un'idea propria, certo, di quello che succede, perché queste scie, oltre a creare problemi alla salute, distruggono il clima e distruggono anche i terreni coltivabili e tutto quello che ne viene di conseguenza. Grazie Rosario, di cuore, come sempre. Grazie a Rosario Marcianò. Sono mezzanotte e mezza, se non sbaglio, da dove si trova lui. Buonanotte a Massimo Mazzucco a questo punto. Buongiorno a voi, ciao Davide, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Spero che l'orario... rispetto alle altre volte sono un po' arrivato, come dite voi. Ti lascio subito la parola, Massimo. Prego, scie chimiche secondo Massimo Mazzucco, ad overture. Vabbè, allora, dunque, cerchiamo di andare direttamente al sodo. Intanto ho notato che appunto Attivissimo è venuto e sulle scie chimiche ha messo su lo stesso identico vecchio disco che utilizza anche per l'11 settembre, che utilizza praticamente come il CICAP per tutte le cose che loro negano. Ricordiamoci una cosa, che Attivissimo ha detto: le risposte le abbiamo date, ci sono, siamo stufi di ripeterle, poi però, come è successo l'11 settembre, che diceva la stessa cosa anche per l'11 settembre, poi quando è venuto in trasmissione io l'ho messo di fronte alle vere domande, non ha saputo rispondere, non ha saputo dare spiegazioni, quindi in realtà ha mostrato di non essere in grado di difendere la versione ufficiale dell'11 settembre che lui dice essere quella vera. Le parole sono tutti bravi a dire, le risposte sono state date, poi se vai a vedere nel dettaglio, come faremo adesso se faccio in tempo, magari i risultati sono un po' diversi. Teniamo presente una cosa che è importantissima, infatti sono contento che Marciano abbia usato quel termine, negazionismo, cioè il CICAP non è un'organizzazione qualunque, queste persone hanno il negazionismo come standard sistematico, cioè loro, se tu vai a vedere il loro sito, i complotti non esistono proprio, cioè vai a vedere, Kennedy è stato ucciso da Oswald e non c'è stato nessun complotto, L'11 settembre ovviamente è stato fatto da 19 islamici armati di taglierini che volevano punirci perché noi in Occidente siamo troppo felici. Per il CICAP la medicina alternativa è solo una serva di stupidaggini, non c'è nessun fondamento. Poi per il CICAP non c'è niente di misterioso nei cerchi nel grano, che secondo loro sono tutti fatti da una banda di birichini che si divertono a far arrabbiare i contadini. Anzi, scusa, no, nel caso dei cerchi nel grano poi ci sono anche, loro elencano anche fra le varie possibilità i porcospini e i cerbiatti in calore, ma questa è una cosa comica che casomai poi vi racconto in un altro momento. Per il CICAP tutti i casi di UFO nella storia, che sono ormai migliaia e migliaia di avvistamenti, sono tutti assolutamente spiegati. Cioè questa gente fa in realtà come ruolo, svolge il ruolo di tranquillizzatore delle masse, infatti non a caso attivissimo si è dimostrato molto preoccupato perché noi espandiamo in giro la paura, quindi questo è veramente il loro ruolo. Quindi se è vero che le scie chimiche non esistono, ha certamente ragione attivissimo a dire che noi siamo ad espandere paura inutile, ma se per caso saltasse fuori che esistono, diventa che lui è responsabile di aver contribuito a tenere nascosta invece una verità importantissima che la gente dovrebbe conoscere. Quindi dovrebbe stare attento attivissimo prima di mettersi a giocare con le responsabilità, perché rischia di vedersele ricadere addosso. Infatti adesso andiamo a vedere più nel dettaglio se veramente, come dice lui, come dicono tutti quelli del CICAP. Velocissimi, ritorniamo a parlare di scie chimiche. Cosa sono nella versione di Massimo Mazzucco, luogocomune.net. Di nuovo buongiorno, buonanotte a Massimo che è in America. Massimo, ciao. Eccomi qua, ciao a tutti. Dunque, vado? Sì, prego Massimo. Ecco, no, ero arrivato al punto di dire appunto, ha ragione attivissimo, se risultasse che le scie chimiche non esistono, va benissimo, siamo noi che mettiamo in giro paure insensate. Se invece per caso risultasse che esistono e se soprattutto esistessero queste prove che lui dice che non esistono, allora il problema si capovolge, diventa molto più grave secondo me. Quindi, andiamo direttamente alla questione, perché vedo che il tempo sta correndo, quindi salto alcune cose di cui magari potremo parlare un'altra volta. Il CICAP ci dice appunto non ci sono evidenze scientifiche, non ci sono prove scientifiche. Io non so cosa intendono al CICAP per prove scientifiche, ma per me gli esami di laboratorio, per esempio a casa mia, sono sempre stati considerati un documento con pieno valore scientifico. E ci sono centinaia, letteralmente, di casi documentati in internet dove sono stati fatti i prelievi nei luoghi dove sono state osservate le abbondanti irrorazioni dei cieli, che poi hanno sistematicamente rivelato la presenza di bario, di particolati di alluminio e di altri composti chimici. Adesso su questi composti non sono ancora un grande esperto, Corrado Penna prima ne ha parlato molto più chiaramente, comunque sono dannosi per la salute e sono sempre, risultano in percentuali esorbitanti rispetto alle medie, cioè di colpo vedi un 200-300%, 400% che non c'era mai stato prima. Certo, uno può dire sempre non ci sono le prove che quei composti chimici sono piovuti veramente in seguito all'irrorazione dal cielo, e questo è vero, però a meno che tu mi offra un'altra spiegazione valida per come hanno fatto a finire lì quei particolati che di colpo buttano la media a livelli impossibili, io devo per forza concludere che siano cadute dalle scie chimiche, dalle scie, diciamo, quelle che abbiamo osservato, e che appunto deduco quindi che siano chimiche. E siccome questo accoppiamento fra osservazione delle irrorazioni e poi esami chimici che mostrano sistematicamente la presenza di questi composti, che sono sempre gli stessi, fra l'altro, che sono quelli che servono appunto al famoso uso militare radaristico di cui avevamo parlato la volta scorsa, a quel punto non puoi più dirmi che non c'è questa correlazione. E comunque non puoi negare che questi esami di laboratorio esistano, capisci? Sì. Quindi questa è una prima cosa secondo me molto importante, perché non puoi ignorare, certo se ignori tutto chiaramente vuoi far finta che non ci siano le prove, ma e le prove ci sono. Adesso scusate perché ho perso il segno, perché volevo saltare alcune cose, un secondo solo. Anche perché ricordo Massimo Mazzucco è il nostro opinionista, qualcuno sì. Proattivissimo ha ricordato che gioca in casa, Paolo Attivissimo non ha mai lamentato riduzioni di spazio, che qualcuno gli abbia negato questo. Paolo Attivissimo può intervenire quando vuole, qui ci mancherebbe. Prego. Dunque, Massimo. Vado avanti, allora poi non solo appunto ci sono, ma ci sono dei casi in cui vedi i servizi delle TV americane, infatti dalle TV locali americane, dove ci sono gli stessi reporter che ti dicono abbiamo portato ad analizzare questi reperti e questi sono i risultati e te li fanno vedere. Quindi se a un certo punto il CICAP vuole mettersi a sostenere che questi esami di laboratorio sono tutti falsi, si faccia pure avanti, li metto in contatto con le TV americane che hanno fatto fare queste analisi, altrimenti dobbiamo riconoscere che in quel caso la prova è più che evidente. Poi ci sono letteralmente ormai migliaia e migliaia di foto, e ripeto, io sono rientrato nell'arena da poco, Marciano rispetto a me ha degli archivi che fanno paura da quel che ho potuto vedere, perché lui invece ha lavorato sempre su questo argomento in tutti questi anni. Ci sono migliaia e migliaia di foto che mostrano le scie a quote, come diceva anche spiegava anche appena, troppo basse per essere scie di condensa. Cosa fa il CICAP allora per rispondere a questo tipo di problema? Hanno tentato in tutti i modi di abbassare al limite le quote a cui una scia di condensa potrebbe anche verificarsi, dicono loro, in condizioni molto particolari. Cioè, è come con l'acciaio delle Torri Gemelle, cioè a furia di tirare tra un po' quell'acciaio diventa molle a 21 gradi centigradi, perché e poi lì il giochino è sempre quello. Ma anche se fosse così, rimangono sempre dei casi particolari, lo dicono loro stessi, che non ricadono nella norma. E quindi o mi fornisci una spiegazione valida per tutte le immagini che ci sono in giro, che sono letteralmente migliaia, come dico, che mostrano scie a livelli troppo bassi per essere normali scie di condensa, oppure devi riconoscere che almeno la gran parte di quelle immagini sono scie chimiche e non scie di condensa. Poi ci sono dozzine di filmati che ho visto io di aerei che rilasciano lunghe scie e che passano sotto agli aerei che invece non le rilasciano. E siccome le scie di condensa, appunto come spiegava prima Corrado Penna, avvengono solo alle quote più alte, se l'aereo più in alto non rilascia nulla, è chiaro che quello che passa più in basso e che lascia la scia non può essere una scia di condensa, se no la rilascerebbe anche quello sopra, quella è per forza una scia chimica. Cosa ha risposto? Quali sono le risposte che Attivissimo dice che esistono e che loro hanno dato? In questo caso la risposta, te la cito letteralmente, dice: tutti questi filmati sono prodotti da persone che da terra guardano verso l'alto, questo metodo di ripresa tende a schiacciare la prospettiva delle immagini e rende estremamente complesso capire cosa sta sopra e cosa sta sotto. Sarà complesso per Attivissimo, che di fotografia ha già dimostrato più volte di non capirci un granché. Se vuoi, Paolo, vieni da me, te lo spiego io in 2 secondi, qual è l'aereo che passa sotto e quale sopra, e ti spiego anche il perché. Quindi in quei casi o tu hai una spiegazione per l'aereo che passa sotto che fa la scia e quello sopra no, oppure anche questa è un'altra dimostrazione che tu dici non esistere. Poi ci sono anche le immagini scattate in quota da altri aerei in volo, che mostrano le scie, ammesse da altri aerei ovviamente, di colore nero oppure blu intenso. A questo punto la spiegazione che ti dà il CICAP, quelle che l'Attivissimo dice, le risposte le abbiamo date, è semplicemente raccapricciante dal punto di vista tecnico, perché ti dicono, dunque loro si pongono la domanda, no? Nella FAQ, nelle domande, dicono, eppure si trovano in rete fotografie di scie scure, alcune completamente nere, come lo spiegate? La loro risposta è, escludendo i casi di guasto, beh, ovviamente che se l'aereo non cade non è quello il caso, è del tutto possibile che una scia pur bianca appaia scura, dipende dal fatto che a seconda della posizione del sole una parte sarà in piena luce e l'altra in ombra, apparendo così più scura. Cioè quello che stanno cercando di spiegare in termini non tecnici è il famoso fenomeno del controluce, cioè se tu hai il sole che sta dalla parte opposta di te e illumina qualcosa in controluce, in effetti la scia che è bianca ti appare grigia o scura. Peccato però che nelle foto che ho viste io, dove c'è la scia nera secca, il sole stia alle spalle del fotografo e quindi quella scia che illumina nera è nera e basta, non c'è niente da fare, non c'è nessun controluce in quel caso. Fra l'altro questa storia del controluce è una cosa che è Attivissimo, ha già fatto un errore simile con l'11 settembre. Dopodiché io ho spiegato perché aveva sbagliato, ha corretto, ovviamente era obbligato a farlo sul suo sito questa cosa, però si è dimenticato stranamente di applicare lo stesso ragionamento a questo altro errore che ha fatto. In questo caso non c'è nessuna spiegazione per quelle scie nere, quindi queste immagini di scie nere fatte col sole alle spalle, dove il controluce non può, non c'è, non può spiegare questo fenomeno, sono chiaramente dimostrazioni di scie chimiche, perché per fare una scia nera ci deve essere dentro qualcosa di più della normale scia di condensa. Come vedi, gli esempi ci sono e come. Poi c'è tutta la serie delle immagini dei radar satellitari, e io su questo sto ancora imparando, Marciano mi ha messo sotto, mi sta facendo fare 5 anni in uno praticamente, Marciano, per recuperare il tempo che ho perso. Comunque ho già capito una cosa importante, i radar satellitari che usano il sistema Doppler e che quindi non sono in grado di rilevare i normali cirri, quelli naturali, e ovviamente non rilevano nemmeno le scie di condensa, In molte immagini mostrano chiaramente delle perturbazioni che però non appaiono sui normali radar meteorologici e queste non possono che essere formazioni di tipo artificiale perché contengono appunto dei particolati, devono contenere dei particolati che rispondono alle frequenze specifiche rilevate dal radar Doppler. Queste immagini dei radar Doppler dimostrano chiaramente che queste perturbazioni che vedi nel cielo non possono essere normali scie di condensa. Quindi a meno che questi signori abbiano un'altra risposta, queste sono scie chimiche. Ci fermiamo per l'ultimo blocco e poi diretti Perfetto. Con Massimo Mazzucco fino alla fine. 49 minuti dopo le 9, gli ultimi 10 minuti sullo speciale di scie chimiche di oggi con Massimo Mazzucco. Andrò velocissimamente nel ricordarvi che già sull'account Overture DG è possibile riascoltare gli interventi che hanno preceduto questo di Massimo. Massimo, prego, la linea ancora a te. Allora, continuo, eravamo arrivati alle prove dei radar, che appunto i radar Doppler che mostrano che queste perturbazioni non possono essere di tipo naturale, ma devono essere per forza di tipo chimico o comunque artificiale. Poi c'è per esempio un importante documento del Pentagono che si chiama Owning the Weather by 2025, cioè diventare padroni del tempo, questo è il titolo vero, entro il 2025, che è una ricerca speculativa, cioè sulle possibilità future dello sviluppo delle tecnologie di inseminazione artificiale dei cieli, eccetera, che è fatto dal Pentagono nel 99, mi sembra, 98, che appunto analizzava tutte le possibili proiezioni future di cosa si poteva fare con il controllo del tempo, il controllo meteorologico, e parla soprattutto anche lì di progressi di tipo militare, non certamente di barzellette come quella che ci vogliono proteggere dal global warming. Il global warming, l'ho già detto, è la nuova scusa che sta venendo usata adesso perché non si riesce più a nascondere il fenomeno delle scie chimiche, allora stanno dicendo sì, vabbè, dai, lo facciamo, ma in realtà è per il bene dell'umanità. Non è questa la verità. In quel documento ci sono dei grafici alla fine che appunto mostrano le proiezioni possibili degli sviluppi dei vari tipi di tecnologie. Fra questi grafici ce n'è uno che indica che l'utilizzo delle scie chimiche è già in corso nel momento in cui viene fatta la ricerca e si prevede la sua crescita nei prossimi 15 anni o 25 anni, quelli che sono, con una certa curva. Cioè nel punto in cui viene fatta partire la curva proprio degli aerosol e delle scie chimiche in particolare, vedi che loro stessi ammettono che sono già in corso, e sono in corso, quindi possiamo affermarlo adesso, da almeno 12 anni, cioè almeno dal 99. Se questa è la data, se non me la ricordo più, forse è 98, comunque siamo lì. Questo è riconosciuto nello stesso documento del Pentagono. Chiaro, non è riconosciuto in forma aperta, però se guardi il grafico c'è scritto lì che quelle sono già in corso e che andranno avanti secondo questa curva proiettata. Poi, sempre a proposito del fatto che non ci sono evidenze scientifiche, c'è stato uno studio scientifico del 2009, credo, del Belfort Group, un gruppo privato olandese, che ha fatto uno studio scientifico di oltre 300 pagine, pieno zeppo di analisi e dati tecnici di ogni tipo, che è stato anche verificato e validato da altri scienziati indipendenti, sulle scie chimiche. Fra le conclusioni dello studio ti leggo alcune cose. Dice: la tecnologia per mettere in atto azioni di aerosol su scala globale è già disponibile, a questo scopo vengono usati aerei sia militari che civili. Si tratta di, poi parlando di carburanti, delle cose che vengono disseminate, dice: si tratta di miscele di ossidi di metallo e di altri composti che possono essere spruzzati nell'atmosfera da speciali ugelli montati sugli aerei, oppure mescolati direttamente nel carburante degli aerei. In particolare, vabbè, qui è inutile che vado nei dettagli, si spiega anche la presenza che viene usata di un additivo del carburante che si chiama Stadis 450, di cui mostra la presenza dalle analisi, e che è proprio un additivo che contiene del bario, che è quello che viene usato per le famose operazioni di tipo militare rispetto alla umidità dell'atmosfera. La ricerca nelle conclusioni dice anche: le operazioni di aerosol in Europa possono avvenire solamente con la previa approvazione dei massimi livelli dei governi interessati, mentre il pubblico viene mantenuto intenzionalmente all'oscuro dell'esistenza di questi progetti. La ricerca conclude dicendo: è necessario approfondire le ricerche sugli effetti di questi aerosol sulla salute umana, e ora che l'esistenza di questi programmi è stata illustrata con abbondanza da questa ricerca, dice, diventa il dovere di un qualunque politico serio di interrogare i propri governi su questa operazione di aerosol. È necessario che venga chiarito anche lo scopo preciso di queste operazioni. Non è più accettabile che ci si nasconda dietro alle ragioni di sicurezza nazionale. Okay? Poi c'è tutto l'aspetto, che a questo punto salto perché siamo in ritardo, l'aspetto biologico, cioè quello famoso del Morgellons che prima ha citato, non mi ricordo più se Penna o Rosario, casomai ne parliamo un'altra volta, certo, comunque anche certo. Qui sembra una cosa di fantascienza, ma alla fine ci sono dei riscontri che sono assolutamente spaventosi ma reali. Quindi, in conclusione, per farla in fretta, le prove delle chimiche ce ne sono, e come ve ne ho citate almeno una decina, ce ne sono altre che non ho fatto in tempo a mettere dentro. Quindi a questo punto non siamo noi che spaventiamo le persone, ma sono i negazionisti, come li chiama giustamente Marcianò, che impediscono alla gente di venire a sapere che cosa veramente sta succedendo nei nostri cieli. Poi d'altronde, voglio dire, ragazzi, le vedono tutti, solo un bambino oggi potrebbe non accorgersi, un bambino o una persona in malafede che voglia continuare a far finta che questo problema non esista. Quindi se ho ancora un minuto... Un minuto, prego, sì, poi io un altro minuto, perché qui stanno chiamando da tutte le parti del mondo. Ti lancio una proposta, prego. Importante, Davide, facciamo sì. Una bella cosa. Sì. Anzi no, scusami, questa cosa vorrei tenerla per la prossima trasmissione. Perché vorrei avere, a meno che tu mi dici che un minuto e mezzo vero, allora vado un su. Un minuto e mezzo vero, proprio perché vai. So, allora, credo di che tu mi voglia parlare. Ti faccio sì. Questo. La proposta che ti faccio è questa. Tu che conosci tanti politici o che comunque puoi contattarli. Premesso che è molto più difficile oggi dimostrare che c'è stato l'olocausto, che non sia dimostrare che ci sono le scie chimiche, e ve l'ho fatto vedere adesso che non è affatto impossibile dimostrarlo. E voglio chiarire una cosa, io non ho mai negato l'olocausto nella mia vita, lo ritengo un crimine imperdonabile, inaccettabile, poi che le cifre siano 600 milioni, 6 milioni, 60, non me ne frega niente, è comunque un crimine contro l'umanità imperdonabile. Però, visto che è molto più difficile dimostrare quello appunto, e che esiste comunque una legge contro i negazionisti dell'olocausto, contro chi nega un crimine così, perché non facciamo anche una bella legge contro i negazionisti dei crimini moderni contro l'umanità, come le scie chimiche, che sono molto più facili da dimostrare di quanto non lo siano quello dell'olocausto? Proponilo a qualche politico. Tanto io lo hai fatto te, io so che molti politici sono in ascolto e quindi già all'impronta getto hanno appreso. Cioè, è inutile andare con l'aereo noi a fare le ricerche noi con il cucchiaino nel cielo, che poi dobbiamo anche convincere la gente che non abbiamo mischiato lo zucchero di casa nostra. Non è, come diceva giustamente Marcello, non siamo noi a dare questa risposta. Il problema esiste, è dimostrabile che esista, ci sono almeno 10 modi diversi per dimostrare che esista. A questo punto sono le persone che negano questa realtà che devono prendersi la responsabilità di quello che dicono e delle conseguenze che escono dal fatto che loro tengano nascosto o contribuiscano a non far sapere la verità su questa realtà. Io ho detto che, ma da ragazzo di campagna com'è paolattivissimo, e nella semplificazione massima dei ragionamenti, una squadra dove si conterrebbero i cosiddetti complottisti e quelli che negano invece le scie chimiche con esperti super partes, anche perché se lasci ai politici questa iniziativa, questa mozione, Davide, si rifanno, sì. Davide, istintivamente sarebbe una scelta giusta, se ci pensi non è assolutamente... Ma anche quella dei politici resterebbe tutta la gestione in mano a loro, a meno certo. Che la bontà della tua proposta non venga condivisa da qualche politico per bene, io mi auguro, sono certo, convinto però... che qualcuno c'è. La forza per fare la legge contro chi nega l'olocausto c'è stata, siccome questo crimine è molto più facile da dimostrare ed è un crimine attuale contro l'umanità, che tra l'altro... E chi ti dice che chi ha voluto quell'olocausto non voglia anche questo delle scie chimiche? Non lo so, non è un mio problema, io guardo le leggi che ci sono, io temo tra l'altro che questo crimine alla fine stia già diventato molto più vasto di quanto era. Signori, vi dico una cosa sola, la luminosità del cielo, l'ha detto la NASA, non lo dico io, ormai è diminuita del 20% mediamente nel mondo. Cioè il cielo è già stato rovinato da questi 15 anni di disseminazione, altro che sono tutte scie di condensa. La NASA ha detto, lo ripeto, che la luminosità media del cielo nel mondo è diminuita del 20% negli ultimi anni. Dobbiamo aspettare veramente che diventi tutto buio per accorgersi che veramente stanno rovinando il cielo, la natura e la vita di tutti noi? Questo è il vero problema, altro che non ci sono prove scientifiche. Allora, lo dico adesso, mettimi la schermata, e vabbè, questi però sono... Bene, l'ENAV si ravvederebbe in questo caso di un ufficiale di Niego che ha fornito alla nostra redazione. Massimo Mazzucco, Rosario Marciano, Corrado Penna, credo che siano altrettanto disposti a ulteriori puntate, e cerchiamo su questo invito ultimo di Massimo Mazzucco di individuare quei politici che hanno una sensibilità così definita rispetto a un problema che è sicuramente più grande di quanto noi possiamo immaginare. Massimo, grazie, lo dico a te, lo faccio attraverso la tua partecipazione, quindi con Massimo ancora in diretta. Credo che tutti i file audio ce li stanno richiedendo da ogni parte del mondo, tuoi lettori. Sito, non è che voglio rubarvi le lezioni. No, devi. Scherzi, ti stavo dicendo questo, che è tutto pronto, quindi parti su YouTube, trovi tutto. Noi abbiamo messo Scie, giocando col nome Scemo, chi ci crede davvero, è un modo anche singolare di promuovere invece un argomento così largamente affrontato e così largamente poco diffuso, questo interesse di natura scientifica e per quello che riguarda la ricerca e lo studio delle scie chimiche. Massimo Mazzucco, ovviamente luogocomune.net, torna giovedì prossimo. Grazie anche a te, Massimo. Arrivederci a tutti, saluti, a presto, ciao ciao. Grazie davvero di cuore. Overture DG è il nostro account redazionale, davide.gramiccioli@libero.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Grazie a Corrado Penna, a Paolo Attivissima, a Rosario Marciano, a Massimo Mazzucco, ai contributi di Luigina Marchese e Giulietto Chiesa, e grazie soprattutto a voi per la cortesa attenzione. Sereno, serenissimo fine settimana.